Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré. Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él, ya sin él, ya sin él.

possibile questo fatto all'umanità. Nessuno può fare niente. Non è più possibile questo fatto all'umanità. Nessuno può fare niente. Nessuno può fare niente. Nessuno può fare niente. Nessuno può fare niente. Questo fatto all'umanità. Nessuno può fare niente. Non è più possibile questo fatto all'umanità. Nessuno può fare niente. Nessuno può fare niente.